Salva Danaio di Deborah Rosciani. Bentrovati ad una nuova puntata di Salva Danaio. Buona giornata, era Deborah Rosciani. Ci siamo sentiti fino a pochi minuti fa, abbiamo seguito in diretta la relazione del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che è toccato anche per certi versi gli aspetti legati al risparmio nel nostro paese. Oggi noi torniamo a parlare di uno strumento di risparmio e di investimento che fino ad un paio d'anni fa era largamente diffuso fra i risparmiatori italiani, e poi per una lunga serie di ragioni che abbiamo analizzato anche più volte proprio in questa sede sta registrando adesso una certa crisi. I riscatti hanno mandato in tilt l'industria del risparmio gestito in Italia. Stiamo parlando appunto dei fondi comuni di investimento che, come è noto, nel giro degli ultimi 24 mesi hanno bruciato oltre 140 miliardi, nel senso che a tanto appunto ammontano i riscatti. Allora, la raccolta di questi prodotti sta invece dando qualche segnale di recupero, e c'è stata qualche tendenza piuttosto interessante che è stata anche analizzata dalle Sole 24 Ore, registrata nel mese di aprile, perché a quanto pare alcuni risparmiatori stanno ritornando sul mercato azionario, anche se con una certa specificità geografica, in particolar modo l'India e la Cina. Allora, cosa ci deve suggerire tutto questo movimento, a luce anche del fatto che il mercato finanziario in senso generale non ci sembra ancora uscito del tutto dal guado della crisi, come anche osservato stamattina dal governatore Draghi? Allora lo chiederemo ai nostri interlocutori di oggi. Ovviamente, come sempre, anche dando spazio alle vostre considerazioni, alle vostre domande, all'800 24 00 24 o al 349 238 6666, se invece di chiamarci vorrete inoltrarci dei messaggi. Gabriele Tavazzani, condirettore generale di Credit Agricole Asset Management SGR, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno, grazie. E ben trovato anche Raimondo Marcialis al telefono, direttore generale di MC Gestioni. Marcialis, bentornato. Buongiorno. Io vi ho ricordato tutti i numeri, visto che stiamo dando i numeri, ne diamo anche altri che sono quelli di borsa. Qualche anticipazione, come al solito, l'avete già sentita nel giornale radio. Beh, allora, intanto stamattina il movimento più forte lo sta registrando ancora una volta l'euro sul dollaro, a 1,4077 il rapporto di cambio in questo momento. Davvero una volata, peraltro un indebolimento del dollaro da qualche giorno che sta continuando invece a provocare l'ascesa dei prezzi del petrolio, nelle ultime ore addirittura a $65 al barile. La borsa è piuttosto positiva in tutta Europa: Parigi più 1,42, Francoforte più 1,32, Londra più 1,24%, Milano invece non segue l'onda europea stamattina ed è addirittura negativa. S&P MIB meno 0,05%, timidamente positivo l'indice telematico più 0,14%, peraltro, come annunciato anche in settimana, ricordiamo che da lunedì avremo a che fare con un restyling di borsa italiana. Alcuni indici scompariranno, altri assumeranno una nuova denominazione, in particolar modo l'S&P MIB 40, che è il nostro principale paniere di riferimento, diventerà il FTSE MIB con la denominazione appunto all'inglese, dato che tutta questa trasformazione è proprio il frutto del processo di integrazione con la borsa inglese, con il London Stock Exchange. Un'occhiata ai titoli di Piazza Affari che registrano i movimenti più interessanti. E allora, di segni più ce ne sono parecchi, sono anche piuttosto interessanti, ma non riescono a far mantenere il territorio positivo all'S&P MIB. Geox più 3,87, Prysmian più 3,30, STM più 2,59, in pregiro più 1,81, Luxottica più 1,42, Pirelli più 1,42, Saipem più 1,40, Tenaris più 1,30, rialzo di un punto per Mediolanum e Finmeccanica più 0,8 per Intesa Sanpaolo. Mentre è Enel oggi in forte ribasso, probabilmente anche a provocare per il suo peso il calo dell'indice, complessivamente meno 4% per i titoli della utility italiana. Il gruppo ha lanciato un aumento di capitale che parte lunedì prossimo. Sono state rese note le condizioni: 2,48 euro per azione, che implica uno sconto del 30% sul valore del titolo, e questo sta provocando appunto una discesa. C'è anche la cessione della rete di distribuzione del gas, che pure viene evidentemente letta non troppo positivamente dal mercato. In ogni caso, titolo oggi in forte ribasso. UbiBanca meno 2, Buzzi meno 1,44, A2A meno 1,38, Mediaset meno 1,35, il Banco Popolare meno 1,3, Mediobanca meno 1,30%. Io direi che possiamo lasciare il mercato finanziario inteso come seduta odierna, ma torniamo sui mercati, perché ritorniamo a parlare dello stato di salute dei fondi comuni di investimento nel nostro paese e delle tendenze recenti che si sono manifestate sul fronte della raccolta. Sentiamo cosa è successo ad aprile. I primi segnali di una timida inversione si erano intravisti già nei mesi scorsi. Dopo un 2008 da dimenticare, nel primo trimestre del 2009 la raccolta del risparmio gestito ha registrato un netto miglioramento rispetto alle rilevazioni precedenti, limitando il rosso a 14,7 miliardi di euro. Un dato decisamente confortante se si considera che nel trimestre precedente il saldo è stato negativo per più di 52 miliardi e nello stesso periodo del 2008 dalle casse del sistema di miliardi ne uscirono ben 57. Ma non è tutto. A cambiare, secondo le ultime rilevazioni di Assogestioni, sembrano essere anche le tendenze degli investitori. Guardando i dati con maggiore attenzione si scopre, per esempio, che i risparmiatori italiani preferiscono i fondi che puntano sui mercati emergenti, che in un mese hanno raccolto 315 milioni di euro, quelli che investono genericamente sui mercati internazionali e quelli che si orientano sui listini europei e dell'area del Pacifico. Piacciono invece decisamente meno le azioni italiane, solo 52 milioni di afflussi ad aprile, nonostante il rialzo superiore al 50% messo a segno in tre mesi da Piazza Affari, mentre iniziano a fare paura quelle americane. I fondi che puntano sugli Stati Uniti hanno infatti registrato ad aprile un deflusso pari a 159 milioni. Insomma, azioni sì, ma emergenti. Sintomo che grandi e piccoli investitori scommettono sul fatto che saranno proprio questi i paesi che per primi riusciranno a riprendersi dalla crisi e a ripartire. 800 24 00 24 è il numero verde, come sempre, a vostra disposizione per commentare con noi il tema di questa mattina, per farci delle domande anche sullo scenario, sulle prospettive economiche delle aree di cui parliamo quest'oggi, ma anche sullo strumento fondo di investimento. Siete ancora, come dire, del tutto disaffezionati rispetto a questo? Verso cosa state puntando? Insomma, quali sono anche i criteri di scelta che vi stanno orientando in questa fase? Allora, cominciamo con Gabriele Tavazzani, con direttore generale di Credit Agricole Asset Management SGR. Lo abbiamo chiamato perché proprio il pezzo del Sole 24 Ore curato dai colleghi Moria Longo e Isabella Della Valle avevano indicato come in un fondo di questa società, come il fondo che in aprile si è comportato nella maniera più, chiamiamola così, brillante, originale in assoluto, perché è riuscito questo fondo che si chiama CAM Eureka China Double Win, qualcosa come 80 milioni di euro fra i risparmiatori italiani. È un fondo che investe prevalentemente in azioni cinesi. Tavazzani, che caratteristiche ha intanto? Allora, buongiorno a tutti. Questo fondo rientra un po' nei segnali positivi che sono stati citati all'inizio, quindi siamo usciti da questa tempesta perfetta che ci ha portato ad avere una raccolta estremamente negativa sui fondi in generale. Stiamo vedendo questa inversione di tendenza sul mese di aprile, che è un'inversione di tendenza comunque con un segno ancora negativo, però nettamente inferiore rispetto alle dei flussi a cui eravamo stati abituati negli ultimi mesi, quindi ormai ci eravamo abituati a mediamente a delle notizie negative sui 3 miliardi di raccolta negativa per mese. Quindi in questo mese effettivamente abbiamo visto un ritorno di interesse sui fondi e in particolare sui fondi azionari, che, come è stato detto precedentemente, hanno avuto una raccolta positiva sul mese di circa 370 milioni. Analizzando un po' i motivi per cui secondo noi c'è stato questo ritorno di interesse da parte dei clienti sui fondi azionari, possiamo, a mio parere, individuare un po' due elementi. Uno è il fatto che questa reazione è molto legata un po' dal punto di vista psicologico ed emotivo al rialzo che c'è stato recentemente sui mercati, perché se vediamo un po' dalle idi di marzo, no, del 9 marzo, i mercati hanno ormai ripreso molto della loro perdita di valore dei mesi precedenti, tra l'altro ripresa proprio a marzo e ci ricorda una ripresa sempre nel 2003, no? Che poi aveva dato origine a un trend positivo. E dall'altra parte vediamo però che questo interesse per l'investimento azionario nel nostro caso si è concentrato su un prodotto a capitale protetto, appunto della gamma dei fondi a formula che CAM ha lanciato per prima in Italia, ed è tuttora l'unica società che propone questa tipologia di fondi di diritto italiano e che consente al cliente di avere un'esposizione al rischio azionario, in questo caso del mercato cinese, con un'elevata protezione garantita del capitale. Insomma. Ecco, ma se la famiglia italiana, risparmiatore italiano, come lei ci diceva, poi magari spiegheremo meglio anche questo aspetto, cerca comunque una certa protezione del proprio investimento, perché chiaramente non vuole più finire nella bufera, come è capitato a molto del nostro denaro negli ultimi due anni, perché non sceglie secondo lei un fondo azionario internazionale, quindi diversifica al massimo il suo investimento? Perché puntare proprio sulla Cina? Allora, credo che ci sia probabilmente una parte importante giocata anche dall'attività di consulenza dei distributori, nel senso che il tema di un'asset allocation geografica, che può essere per una parte percentuale del portafoglio allocata proprio su le regioni asiatiche e in particolare quelle della Cina, è anche legata a un tema di investimento coerente con i fondamentali di queste economie. Se mi si permette una citazione tra virgolette asiatica di Mao Zedong, si diceva che non è importante chi è il più grande, chi è il più piccolo, è importante chi sta diventando grande e chi sta diventando piccolo. Quindi vediamo che effettivamente quello che ci racconta il mercato, gli analisti e un po' gli economisti, stiamo vedendo una ripresa dell'economia attraverso gli incentivi fiscali da parte del governo cinese, che può effettivamente essere da traino all'economia di questi paesi. Quindi forse per questa volta i paesi emergenti possono essere da traino ai paesi emersi o comunque le economie sviluppate, e quindi sostanzialmente essere un po' i primi paesi che usciranno da questa profonda crisi. Peraltro economica. Anche lì continuiamo a definire la Cina e l'India come paesi emergenti. In realtà avevamo tentato di abbandonare questa definizione per questi paesi negli ultimi anni, forse la crisi che ha imperversato nell'ultimo periodo ci ha imposto di dover tornare a richiamarli in questa maniera, non lo so. Raimondo Marcialis, in ogni caso è una tendenza che comporta delle considerazioni interessanti. Quello che è accaduto appunto in aprile, questo ritorno verso l'India e verso la Cina, è un segnale comunque di incoraggiamento anche verso una ripartenza di queste economie. Abbiamo visto anche come abbiano aiutato il resto dell'economia mondiale negli ultimi anni, la loro domanda fortissima in termini per esempio di materie prime e tanto altro ha comportato anche un traino a tutto il resto del panoramico economico internazionale. Pertanto, quello che vediamo ad aprile, che cosa ci deve portare a pensare? Oh mamma, è difficile dare una risposta, no? Perché in realtà la situazione dei mercati e anche quella che può essere l'evoluzione non sono in questo momento così chiare, no? E qua stiamo un pochettino affrontando temi che possono essere differenti. Vediamo alcuni aspetti, almeno secondo le nostre considerazioni. Secondo le nostre considerazioni, soprattutto questo grande impulso verso gli investimenti nel mercato cinese nei fondi comuni italiani, che si è visto in quest'ultimo periodo, sono da addebitarsi, tra virgolette, o accreditarsi, a seconda poi di come andranno, soprattutto a delle scelte distributive e non a una naturale domanda del cliente, del risparmiatore. Di fatto il tema Cina è un tema del quale si continua a parlare, è uno dei temi più citati nei giornali, è uno dei temi che oltretutto possiamo quasi proprio apprezzare in tutta la nostra vita quando andiamo a comprare dei prodotti e molto spesso scopriamo che sono per l'appunto made in China, no? Quindi non si tratta in questo momento di una scelta da parte degli investitori, ma di un indirizzo, tra virgolette, relativamente facile da vendere da parte del canale distributivo. Questo non vuol dire ovviamente che questo sia no, anche perché voglio dire, il canale distributivo si muove sulla scia di determinate direttive che arrivano, perché poi le banche hanno determinati uffici studi che lavorano, vanno a monitorare ovviamente l'andamento delle principali economie. Io da lì riparto, segno che in Cina si sta rivedendo qualcosa di interessante? Che possa riportare tutto il motore economico a crescere? Sì, certamente. Ci sono due elementi che sono veramente estremamente importanti. Uno, la modernizzazione in termini generali che ha avuto la Cina e gli eccellenti rapporti in termini politici e commerciali che ha avuto con i paesi sia dell'area asiatica sia i paesi occidentali, no? E quindi il fatto che la Cina sui mercati internazionali si sia anche posta come un partner, tra virgolette, sostenibile, serio, ecco, in termini un po' paradossali, capitalistici, diciamo così. La seconda cosa è che questo paese, proprio per le contraddizioni anche politiche interne che ha, è un paese che deve necessariamente crescere, deve assolutamente puntare su uno sviluppo molto forte e molto continuo, perché se no si innesterebbero, secondo la stragrande maggioranza degli osservatori, delle serie problematiche di tipo politico. Di fatto la campagna, la povertà preme verso il mondo manifatturiero in un modo estremamente importante. Vi è un terzo elemento estremamente significativo a favore della Cina, è dato proprio dal fatto, dal tipo di reazione che hanno avuto le autorità cinesi a fronte della crisi, rilanciando in modo consistente gli investimenti pubblici e soprattutto nelle infrastrutture. Ecco, questi sono degli elementi che sono oggettivamente interessanti e importanti per la Cina. Detto questo, però, ovviamente, come per tutti gli investimenti che sono geograficamente lontani da noi, io credo che ogni risparmiatore debba tenere sempre in considerazione la regola aurea dell'investimento, diversificare e quindi cercare anche di dare il giusto peso nell'ambito del proprio portafoglio ad un investimento verso quest'area. Gabriele Tavazzani indicava Raimondo Marcialis tra i vari impulsi che hanno portato il ritorno della raccolta dei fondi comuni di investimento verso queste aree e anche ovviamente la politica delle reti distributive. Guardiamola da questo punto di vista, allora, la forte raccolta che avete fatto nei confronti verso questo prodotto, insomma, tra risparmiatori. Perché un'azienda decide di focalizzarsi su quest'area? Beh, in parte corretto, però secondo me in questo ultimo periodo, grazie anche all'introduzione della MiFID, che molto spesso ultimamente è stata vista più per gli impatti tecnici operativi e per i costi che le banche hanno dovuto sostenere per la sua implementazione e lato clienti un po' anche per la difficoltà nel dover compilare o rispondere a determinate domande sulla propria situazione finanziaria e sul proprio situazione patrimoniale. Io penso che la politica distributiva all'interno della banca chiaramente è legata alle decisioni commerciali, ma sempre di più e recentemente la mia esperienza nel lavoro con le nostre reti di distribuzione è quella di offrire un servizio di consulenza alla clientela. Quindi questo è secondo me il passaggio epocale. Quindi se forse uno dei difetti in precedenza delle reti distributive era quello di puntare su singoli prodotti, magari legati anche a mode di mercato oppure a trend che possono essere passeggeri, il fatto di essere ritornati, e questa è una nota positiva, all'utilizzo dei fondi e all'utilizzo intelligente dei fondi, come dicevi tu prima, all'interno di un portafoglio diversificato, è un'occasione importante per ridare un ruolo importante al distributore, che è quello della consulenza. Quindi è chiaro che le scelte, la selezione dei prodotti spetta al distributore. Perché? Perché ha la competenza tecnica e professionale necessaria per fornire al cliente un portafoglio diversificato. Infatti la raccolta che abbiamo avuto su questo singolo fondo è importante, ma è poi da vedere anche nel contesto della raccolta positiva che abbiamo su le altre tipologie di prodotti. Per esempio? Quindi su altri prodotti diciamo obbligazionari o monetari, che possono rappresentare in questo momento un diciamo una forma di parcheggio da cui riallocare verso investimenti azionari, magari tramite i servizi legati ai fondi, che sono i piani di accumulo, i piani di rimborso programmato, che consentono una forma di investimento intelligente, come noi cerchiamo di proporlo, e consente al cliente di prendere progressivamente una posizione di rischio all'interno del suo portafoglio, sempre nell'ottica di una visione complessiva e di una diversificazione complessiva del portafoglio. Come dicevo prima, il fatto anche di aver lanciato all'interno della nostra gamma dei prodotti a capitale protetto garantito serve anche per fornire e servire quei clienti che hanno una propensione a rischio estremamente contenuta e su cui, diciamo, per vari motivi non è neanche possibile intervenire per aumentarla. Quindi, diciamo, la propensione a rischio non è uguale per tutti, e quindi direi, bisogna verificarla caso per caso. Quindi, diciamo, offrire una gamma diversificata consente anche di servire con l'investimento azionario un numero maggiore di segmenti di clientela. Raimondo Marcialis, ci sono già tra l'altro anche delle considerazioni di alcuni ascoltatori al 349-238-6666, che tra l'altro toccano anche tematiche differenti, però vorrei chiedere anche a lei se invece ha avuto modo di rilevare, per quello che riguarda il mese di aprile, come dire, delle tendenze differenti rispetto a quelle generali dal punto di vista della vostra raccolta. Risparmiatori che seguite, gli investitori che seguite, su che cosa hanno puntato, se la vostra tendenza conferma quella generale da cui siamo partiti. Ma nel nostro caso la situazione è un pochettino diversa, no? Nel senso che, diciamo così, che la nostra gamma di prodotto è soprattutto basata su un principio che è quello della diversificazione, semmai anche con delle importanti componenti di rischio intese come investimento nel mercato azionario, però sempre rigorosamente con una diversificazione mostruosa, questo è il termine corretto, perché nel nostro caso facciamo fondi di fondi. Allora, il fatto di fare fondi di fondi significa da una parte sfruttare l'expertise che hanno i diversi gestori e dall'altra parte invece generare una situazione che deve permettere all'investitore di non avere mai una crisi di fallimento all'interno del suo portafoglio, oppure di singola crisi che fa crollare un investimento specifico. Quindi questo insomma non riesce a permetterci di individuare una tendenza specifica nelle scelte degli investitori? No, anche se come osservatore, ovviamente avendo la fortuna di poter un po' colloquiare con tutti i colleghi del mondo, la vera considerazione da fare è che oggi è difficile prescindere dagli investimenti nei mercati emergenti perché sono estremamente rilevanti, ma mentre in alcuni casi, fino a pochi anni fa, alcuni di questi paesi non venivano neanche considerati dai gestori, oggi sono diventati dei veri e propri delle vere e proprie asset class e sono quasi irrinunciabili. Mettiamola giù, ad esempio, in termini diversi nel mondo professionale. Lo possiamo fare nella seconda parte di Salvadanaio? Ma certo. Eccoci ritrovati in diretta alla Salvadanaio, ancora buona giornata da Deborah Rosciani. Allora, stamattina siamo ritornati sull'andamento dei fondi comuni di investimento, perché dopo 2 anni di disinvestimenti continui in ogni asset azionario dall'obbligazionario, in aprile si è intravista una tendenza diversa, un ritorno dei fondi sul mercato azionario con una particolare focalizzazione geografica che è quella delle aree emergenti, quindi Cina, India ed altre zone che adesso analizzeremo. Però insomma qualche ascoltatore contesta un po' l'impostazione di questo programma, che parte da alcuni numeri. Giuseppe da Milano, insomma, l'ho proprio infastidita stamattina, buongiorno. No, buongiorno, non mi ha infastidito affatto, anzi sembra molto stimolante ascoltarla. Ma metto in relazione queste affermazioni dei suoi ospiti con quanto banalmente l'uomo della strada potrebbe immaginare. Sentiamo. Io non vedo perché debba andare a investire laggiù in fondo a 8-10 fusi orari di distanza, quando qui in Italia tutta una piccola e media impresa potrei investire e magari non posso perché non trovo neanche i fondi di investimento necessari e sufficienti. E inoltre, mi scusi, perché dovrei andare a investire con i miei concorrenti? Investo in casa mia, semmai, no? Ma Giuseppe, io non ho nulla da eccepire rispetto a questa sua considerazione, che è quella di un investitore evidentemente molto preparato, molto, molto avveduto, ma che soprattutto ha una precisa percezione di quelle che sono le sue esigenze di risparmio. Io voglio sperare che tutti quei risparmiatori a cui CAM ha venduto questo fondo che punta sulla Cina siano persone che abbiano una grande chiarezza rispetto all'area geografica sulla quale hanno puntato, Giuseppe, per cui credo che io e lei, poi detta in maniera diversa, siamo assolutamente d'accordo. Tavazzani, insomma, li avrete presi a botte per sottoscrivere questo fondo, perché sicuramente Marcialis diceva che la politica commerciale che spinge poi certe aziende a puntare su queste aree che magari ritorneranno a crescere, sicuramente insomma la distribuzione fa il suo, però io non credo che proprio abbiano firmato questi contratti questi sottoscrittori con una benda sugli occhi. Non so, ci spieghi un po' come funziona. No, ma allora, quando si costruisce un portafoglio di investimento per il cliente, è chiaro che bisogna ispirarsi a dei principi legati all'ottimizzazione del portafoglio che, come si diceva in precedenza, richiede una importante diversificazione. Quindi è chiaro che i principi nazionalistici per il sostegno dell'economia lo facciamo incrementando il nostro consumo, acquistando prodotti magari nazionali, e comunque non possiamo esimerci da considerare in un'economia globale che, come è stato detto questa mattina da Mario Draghi di Banca d'Italia, che il PIL dell'Italia calerà o frenerà del 5%, mentre invece sappiamo che le economie emergenti avranno delle crescite positive sfide estremamente importanti. Quindi è chiaro che nella ottimizzazione di un portafoglio di investimento, per fare il bene del cliente in un'ottica sempre di lungo periodo e di diversificazione, è chiaro che il peso di questi investimenti deve essere commisurato appunto al profilo, all'orizzonte temporale del cliente. Se prendiamo ad esempio l'indice Morgan Stanley internazionale dei titoli azionari, l'Asia pesa circa il 5-10%, quindi questo può essere una percentuale chiaramente allocata su questo tipo di investimenti, per cui chiaramente non rappresenta la parte principale del portafoglio. Chiaramente il peso ancora importante è quello delle economie di Europa e di America, perché chiariamoci bene, se gli americani non tornano a consumare o se gli europei non tornano a consumare, nessuno può stare tranquillo. Quindi è chiaro che nell'ottica di diversificazione, se parliamo di ottimizzazione degli investimenti, è corretto secondo noi andare a diversificare il proprio portafoglio anche su questi mercati. È importante che lo si faccia nella proporzione assolutamente corretta e pertinente rispetto alle proprie esigenze di risparmio e di investimento. 800 24 00 24 è il numero verde ancora che permette agli ascoltatori di intervenire sul tema di questa mattina. Intanto il petrolio si è arrampicato a $66 al barile, e allora adesso, visto che tra l'altro ci accingiamo a questo lungo ponte di vacanza, molti di coloro che ascoltano, perché io sarò al lavoro anche lunedì e martedì, troveranno indubbiamente un adeguamento istantaneo dei prezzi della benzina ai distributori. Marcialis, lo sa che non mi ricordo su che cosa l'avevo interrotta prima della pausa? Faccio questa figuraccia con lei, ma se lo ricorda lei sicuramente. No, ma non è assolutamente nessun problema. Io stavo dicendo quali sono i vantaggi o le cose che oggi portano a considerare la Cina uno dei mercati importanti, tra i più importanti che esistono al mondo. Ovviamente però non esistono solo questi vantaggi, no? E poi una premessa: inevitabilmente questa è una materia così complessa che noi tendiamo sempre a semplificare e cerchiamo di dire che le cose o sono bianche o sono nere, e non c'è niente di più falso. Le cose sono estremamente più articolate anche in relazione all'utilizzo dei fondi o delle politiche commerciali, dove esistono degli elementi positivi e degli elementi negativi. Facciamo l'esempio del petrolio, no? Sì. Proprio perché ha parlato del petrolio. Fino a un po' di tempo fa tutti gli analisti del mondo, era quasi un luogo comune, e ne abbiamo parlato tanto tempo fa anche in questa trasmissione, dicevano: oh, che bello, i mercati emergenti realizzano una disinflazione, ovvero fanno scendere i prezzi perché lavorano dei prezzi molto più bassi. Ecco, però attenzione, valutiamo un attimo questo, che cosa significa e come si è poi trasformato. In realtà l'enorme crescita di questi paesi, l'enorme fame, ha favorito una crescita folle, indiscriminata, proprio delle materie prime, riportando l'inflazione sul mercato. Quindi smentendo completamente tutte le analisi e di fatto creando un fattore di inflazione all'interno del mercato. E questo quindi è l'esatto contrario di quello che a volte si dice. Altro aspetto così curioso e interessante: perché devo investire nei miei concorrenti, diceva il nostro... Sì, infatti io poi ancora stavo lì con il pensiero, peraltro, mentre stavo ascoltando. Perché è interessante, no, questa considerazione, ma è una considerazione veramente molto ampia. Ma noi abbiamo davvero una così scarsa offerta nel nostro paese, l'industria dei fondi di investimento è enorme. Io credo che ci siano molti prodotti anche che puntano sulle piccole e medie imprese. Il tema è capire se questo è il momento di farlo. Perché l'economia sta andando come sta andando, perché il nostro paese, Draghi lo diceva questa mattina, piccola e media impresa, tra l'altro pochissima industria piccola è quotata in Italia, per cui è rappresentata anche nei fondi di investimento, pertanto c'è anche questo problema. Marcialis, non so se ho detto una cosa scorretta. No, brava come sempre, Deborah, infatti anche quando parliamo la Cina e vediamo le analisi sulla Cina, abbiamo un effetto falso, scusa se torno sulla Cina, dove confondiamo la crescita del paese con la crescita della sua borsa, e sono due cose completamente diverse. Un esempio è l'Italia, dove il tessuto industriale invece è fatto da piccole e medie aziende, no? In questo momento, con tutta probabilità, anche se può portare a delle perdite transitoriamente, l'investimento nelle piccole e medie aziende, ad esempio, è estremamente interessanti, perché nelle fasi di crisi sono quelle che più facilmente riescono a concentrarsi sul loro core business, rivedere il loro modello, muoversi per cercare di nuovi spazi di mercato. Quindi ci sono delle buone probabilità, ad esempio, che l'investimento sia positivo in questo tipo di settore. Posso tornare un secondo sul fatto se investire in Cina è un danno o non è un danno, che riporta un altro tema che può essere interessante. Ritorniamoci. Sì, sì. In realtà, sempre in termini di numeri, la Cina ha questa caratteristica, ovvero tutto quello che poi, diciamo così, guadagna con la sua manifattura, con la sua industria, esportando nei paesi occidentali, attenzione che dall'altra parte lo reinveste, vitalizzando il ciclo economico mondiale. Sì. No? Quindi in realtà genera un beneficio e l'ha generato negli anni passati, no? Per converso, proprio questa accelerazione economica rende probabilmente queste crescite poco sostenibili. Quindi attenzione che questo può comportare dei rischi se si riprendono sviluppi come quelli che abbiamo visto nel recente passato. Tavazzani cosa pensa di questa analisi? Allora, sicuramente sì, siamo ancora in una situazione di incertezza, quindi questo 2009 è agitato da risultati negativi, molto positivi e in breve termine, che devono comunque farci analizzare la situazione con estrema attenzione. Sono convinto che dal punto di vista delle potenzialità questi paesi hanno grandi opportunità e come si diceva all'inizio ormai sono da considerare all'interno dei paesi ormai emersi, anche perché una sola considerazione: abbiamo visto nelle società nei paesi molto più industrializzati come in America ad esempio, che il sistema bancario è stato un po' all'origine della crisi che poi si è riverberata sull'economia. In Cina abbiamo un sistema bancario più solido, più stabile, quindi tutti gli incentivi e gli stimoli, gli investimenti che sono stati fatti dal governo sono diciamo trasferiti immediatamente nell'economia, in investimenti in infrastrutture, che chiaramente danno uno stimolo in generale al paese e che stanno sempre di più creando anche una forte domanda interna. Quindi non solo la Cina come grande esportatore all'interno delle economie mondiali, ma anche come primo consumatore di quello che produce. Quindi tutti questi elementi ci danno un po' il quadro e tutto quello che è stato detto, che ci sarà sicuramente un cambiamento nell'ordine geopolitico ed economico internazionale. L'India stessa diventerà probabilmente fra alcuni anni una delle economie più grandi, forse la più grande al mondo. Quindi questi elementi in chiave prospettica sono poi anche anticipati dai mercati per quanto riguarda le quotazioni e quindi le valorizzazioni di borsa. Certo è che rimangono sempre dei problematiche sociali che devono essere risolte all'interno di questi paesi e che in determinati momenti potrebbero in qualche modo riscaldare la situazione e creare ulteriori problematiche. Che questa è una questione un po' più complicata, comunque tenute sotto stretta osservazione per chi decide con il proprio investimento di puntare verso queste aree. Quindi l'instabilità politica è un fattore appunto di assoluto rilievo. Allora, questo strabiliante CAM che investe in Cina, Gabriele Tavazzani, quanto costa ad un investitore che volesse puntare su quest'area attraverso questo strumento? Ovviamente non è l'unico che investe in Cina questo fondo, ma insomma credo che tutte le società di gestione del risparmio, almeno le più importanti nel nostro paese, abbiano un prodotto in casa propria. Noi però oggi abbiamo loro e su loro vogliamo un po' focalizzarci. Certo, allora, per quanto riguarda il CAM Eureka China Double Win, una premessa: innanzitutto il fondo aveva una finestra di collocamento, quindi il fondo non è più sottoscrivibile, però fa parte di una gamma di fondi CAM Eureka che periodicamente, circa ogni due mesi, sono disponibili presso i nostri distributori, in particolare presso Cariparma e Fruladria del gruppo Crédit Agricole, le banche distributrici e altri distributori che poi si trovano sul nostro sito internet. Questo fondo in particolare aveva un costo di gestione pari a 2,40 per i primi due anni e un punto percentuale per gli anni successivi, e aveva una scadenza di 4 anni, a fronte del quale c'era appunto il livello di protezione garantita e quindi la possibilità per questo fondo poi di guadagnare sia se il mercato cinese aveva una fase di rialzo o addirittura anche una fase di ribasso. Infatti, come si concretizza una protezione garantita? Si tiene sotto controllo il rischio del cambio? Come si fa? Allora, in questo caso il fondo è un fondo della gamma formula, quindi era un fondo strutturato come tutta la gamma CAM Eureka, e propone una struttura già conosciuta ex ante. Quindi sostanzialmente questo prodotto dava a scadenza dei 4 anni una partecipazione massima al rialzo del mercato azionario cinese del 35% in fase positiva, e comunque dava la possibilità di guadagnare fino a un ribasso del meno 30%. Quindi fino a meno 30% il cliente avrebbe in ogni caso preso in termini assoluti il 30%, però positivo. In casi di diciamo, situazioni molto negative di mercato che alla scadenza di 4 anni portassero a perdite superiori al 30%, il cliente registrerebbe una perdita ma limitata alla differenza tra la perdita effettiva dell'indice, ipotizziamo avesse fatto meno 40 e il meno 30, quindi perderebbe solo un 10%. Quindi diciamo ha un'elevata possibilità di partecipare al rialzo dell'economia, quindi dei mercati emergenti, in particolare in questo caso della Cina, con un'elevata protezione al ribasso, quindi potendo sfruttare anche una parte nell'eventualità di un ribasso ed essendo protetto nei casi peggiori e quindi, come dicevi anche tu prima, no, in casi di instabilità che ancora un po' possono influenzare i risultati di questo paese, avere comunque una protezione rispetto ad eventi negativi. Allora, un paio di domande di due ascoltatori per gli ultimi 5 minuti che ci rimangono e rifletteremo sui loro commenti insieme. Francesco da Piacenza, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo, avevo un'informazione, sono un cliente Credit Agricole Cariparma, quindi quella cosa che mi interessa è questa. Io ho un fondo trading internazionale che sono 3 anni che sta perdendo, sì, naturalmente. Allora, la domanda è questa: i fondi internazionali chiaramente contengono già per loro gestione dei mercati di cui stiamo parlando. Sì. Allora, siamo ancora in tempo a mediare e reinvestire o è meglio uscire e fare quelli di cui state parlando? Francesco, se potessimo dare una ricetta in maniera così esplicita, poveri, poveri noi. Tavazzani, questa è di nuovo per lei, non posso girare questa domanda a nessun altro, mi spiace. Allora, innanzitutto buongiorno al nostro ascoltatore e al nostro cliente. Le posso dire, il fondo azionario internazionale che sta perdendo da 2 anni, perché chiaramente si porta dietro i risultati. Magari avessimo un gestore che non solo ha battuto il mercato, si è protetto dalla crisi, ma addirittura ha fatto una scelta, insomma, di aziende nel fondo vincente. In quel caso sarebbe un fondo flessibile, ce ne sono alcuni che hanno avuto risultati diciamo positivi, ma diciamo meno negativi rispetto al mercato azionario, perché come sappiamo l'anno scorso, poi anno in cui tutte le classi di attivo hanno avuto risultati estremamente negativi, era anche difficile per un gestore poter diversificare e trovare valore nell'attività di gestione. Quello che le posso dire è che un fondo azionario internazionale ha un'ottima diversificazione e quindi i pesi su queste aree, in particolare su Cina, India e sui mercati emergenti, diciamo sono più o meno legati, come dicevamo prima, al peso che questi mercati hanno nell'indice azionario internazionale, quindi circa 5-10% se non consideriamo il Giappone, e vengono gestiti attivamente dal gestore che in qualche modo, come si dice, sovrappeso, sottopesa questi mercati in funzione delle aspettative di crescita dell'economia, ecco, e quindi dei mercati. Le posso dire che in questo momento switcherebbe molto volentieri. Voi avete questa nuova proposta commerciale, chiaramente non conosciamo tutte le caratteristiche e delle necessità del nostro ascoltatore, per cui prima di tutto bisognerebbe fare un'analisi molto accurata di quelli che della sono i suoi bisogni, della sua situazione personale e del peso che in questo momento ha questo portafoglio azionario internazionale nel suo portafoglio. Quello che le posso dire è che comunque già il fondo che ha sottoscritto contiene questi paesi che in questo momento all'interno dell'allocazione del gestore sono sovrappesati, quindi in qualche modo c'è la possibilità di prendere anche beneficio delle rivalutazioni, però in un'ottica molto più diversificata, certo, e quindi sostanzialmente diciamo più in qualche modo sicura in un'ottica di meno volatile. Ci sono già nel suo fondo, dovrebbe anche pensare a quanto gli costerebbe un'operazione di spostamento, insomma, del suo investimento da un fondo che è già partito rispetto ad un altro che sta partendo ora, quindi il costo di investimento nel nuovo piuttosto che il costo di riscatto di uscita dall'altro, mettere sul piatto della bilancia, insomma, tutti questi aspetti e valutare se c'è anche da questo punto di vista la convenienza. Allora, rapidamente, Daniele da Roma, chissà se riesco a sentirla, buongiorno. Sì, buongiorno. Come diceva la sua collega, ho un piccolo dubbio in base a questi fondi. Giustamente il radioascoltatore prima parlava dei fondi investimento su base europea o comunque su base più locale che non sui mercati asiatici, ma questo spostamento così forte verso questi mercati cosiddetti emergenti è un sintomo di profonda sfiducia da parte del comparto finanziario per quanto riguarda la possibilità di sviluppo dei fondi europei o comunque del mercato. Grazie europeo. Daniele, do 30 secondi di tempo, me ne dispiace moltissimo, a Raimondo Marcialis, ma c'è volato, gli ascoltatori come al solito si svegliano proprio nell'ultimissima parte della trasmissione, si incuriosiscono nell'ultima parte. Marcialis, chiudiamo con... No. Allora, noi abbiamo sicuramente una crisi di mercato molto importante, dall'altra parte abbiamo una crisi del risparmio gestito, quindi con delle vendite di fondi, soprattutto nel comparto obbligazionario, che sono anche giuste, per lo più a seguito delle politiche delle banche che hanno deciso di far disinvestire i fondi. È chiaro che il mercato azionario cinese è molto più facile da vendere, molto più intrigante, può promettere dei grandi guadagni, e quindi è molto più facile parlarne perché è anche un problema di moda. È chiaro che l'investimento europeo azionario ha ancora degli spazi di crescita che possono essere importanti a seconda di come evolverà questa crisi, ed è sicuramente un mercato enormemente più sicuro di quanto non lo siano i mercati emergenti. E questa insomma la ricetta finale dalla quale bisognerebbe organizzare e far partire un'altra trasmissione che durasse un'ora, stamattina però non ce la facciamo. Grazie a Raimondo Marcialis, a presto. Grazie a voi. Grazie anche a Gabriele Tavazzani per essere stato con noi. Grazie, arrivederci. Grazie a Valeria Coffaro e Gaia Romani che mi hanno seguito per tutta la mattinata, per tutte le dirette. Grazie anche a Giorgio Matè per la collaborazione in assistenza tecnica. Noi ritorniamo lunedì. Buon fine settimana a tutti.